Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Fare l'amore non fa male al cuore, e questa è la conclusione di uno studio presentato al congresso dell'Associazione dei Cardiologi Americani. A Obiettivo Salute la dottoressa Maddalena Lettino, responsabile dell'unità operativa di cardiologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Milano, commenta la notizia. Fare l'amore non è un'attività che fa male al cuore, al contrario è una di quelle attività che migliorano la qualità di vita e che quindi andrebbero suggerite anche ai pazienti cardiopatici. Una comunicazione recente al congresso dell'American Heart Association ha evidenziato che non c'è un aumento dell'arresto cardiaco nei pazienti che svolgono questo tipo di attività piacevolmente. Di conseguenza dovremmo consigliare ai nostri pazienti, così come riprendere l'attività fisica è importante, anche riprendere una vita di relazione fatta di una sana attività sessuale estremamente importante per il loro futuro. Cuore, i segnali da non sottovalutare, per conoscerli ascoltate l'approfondimento sulle pagine di Obiettivo Salute della nostra esperta. La dieta dell'anziano deve prevedere anche una buona quota di proteine per contrastare la perdita fisiologica di massa e forza muscolare. A Obiettivo Salute il dottor Andrea Poli, presidente Nutrition Foundation of Italy, ci guida nella scelta. Questo recente studio controllato ha confermato che incrementare la quota di proteine nella dieta è molto importante, soprattutto dopo una certa età. È ben noto che dopo i 40 anni le masse muscolari cominciano a ridursi, è un fenomeno che i geriatri definiscono sarcopenia, che vuol dire perdita appunto della componente nobile del muscolo, e tutto questo espone al rischio di cadute che nella persona di una certa età possono diventare pericolose. Classicamente si dice che dovremmo consumare circa un grammo di proteine al giorno per ogni chilo di peso corporeo. In realtà questo studio suggerisce di aumentarle ancora un po' di più, fino a un grammo e mezzo di proteine per ogni chilo di peso corporeo, e suggerisce che questo si associ a un miglioramento del tono muscolare, soprattutto delle gambe, che è molto importante. Un grammo e mezzo di proteine al giorno per chilo di peso vuol dire, per una persona di 70 kg, circa 100 grammi di proteine al giorno. Naturalmente è importante anche la qualità delle proteine, quindi possibilmente proteine di alto valore biologico come quelle di origine animale, e dato molto recente cuocendo le carni molto bene, perché questo aumenta la capacità dell'organismo di assorbire e utilizzare questi composti. Per chi avesse delle preferenze differenti, preferisse stare nell'ambito vegetariano, l'alternativa è di utilizzare soprattutto i legumi, che sono una fonte molto ricca di proteine, combinandole però con le proteine dei cereali. Riso e piselli, pasta e fagioli sono un modo per aumentare la qualità delle proteine dei vegetali, compensando le carenze che alcuni di questi alimenti hanno. Fastidiosa, spesso recidivante, due aggettivi che calzano a pennello per la cistite, una delle più frequenti infezioni delle vie urinarie. Quali sono i sintomi da non trascurare, soprattutto come curarla? Ne parlo tra poco in diretta Facebook con la dottoressa Roberta Daccò. Seguitemi. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta video. Un saluto e buona giornata da Nicoletta.